Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente il primo intervento europeo di Mario Monti, ascolteremo alcuni passaggi della conferenza stampa e anche le dichiarazioni dei vertici europei e dei partner europei. Ha parlato oggi anche il numero uno della banca centrale tedesca, della Bundesbank, sull'Italia. E poi l'andamento dei mercati e del maledetti più che altro spread. Oggi di nuovo in tensione in tutta Europa e anche sull'Italia. La borsa perde 1,5% a Milano, perde lo 0,46 a Parigi, lo 0,70 a Francoforte e invariata a Londra. L'America perde 0,5%. L'euro però resta fisso e stabile a 1,35 sul dollaro. Come mai Milano così male? Beh, male tutti i titoli bancari, dal Banco Popolare che perde il 5,30. L'assicurativo Fondiere sai il 5,30 anch'esso, Unicredit meno 3,90%, Monte dei Paschi meno 2,90%, Intesa meno 2,90%, Mediolanum meno 2,80%, Azimut il peggiore, Risparmio Gestito meno 7%, e poi male anche Fiat meno 2,7%, Mediaset meno 2,6% come Telecom Italia, Ubibanca meno 2,5%, perfino Eni perde l'1,80%. Va bene oggi, insomma, un rimbalzo, la Popolare di Milano più 3,83%, Prismian più 3,14%, Ansaldo più 2%, Exor più 1,40%, tiene anche Tenaris 0,5% come Enel. È un rimbalzino modesto, anche per Finmeccanica, qualche ricopertura, più 0,33%. Allora, parleremo di Mario Monti a Bruxelles, del rapporto anche degli stipendi dei top manager a livello europeo, perché in un periodo in cui si chiedono sacrifici a tutti, ai pensionati, ai lavoratori dipendenti, a chi ha la prima casa, queste sono le varie ipotesi, insomma fa un po' specie vedere che alcuni sfuggono a questo. Non è la casta dei politici, che pure esiste come tema, ma è una casta che per carità non pesa sul contribuente pubblico, perché il manager privato, il top manager, risponde agli azionisti del gruppo che guida. Però andremo a vedere che cosa è successo nelle paghe, nelle retribuzioni dei top manager, soprattutto dei gruppi bancari in Inghilterra, ma non solo, e ci accorgeremo, ahimè, che lì la crisi non c'è stata, anzi, guadagnano forse di più rispetto al pre-crisi. Ancora, per quello che riguarda invece la seconda ora del programma, ci occuperemo del rapporto ABI sull'andamento di mutui per le famiglie e risparmio degli italiani, con integrazione anche di quello che è stata l'analisi del Censis per capire che cosa stia succedendo al risparmio degli italiani, che viene continuamente intaccato in questi momenti di crisi. Ma l'ABI oggi ha fatto notare come il risparmio mensile per famiglia sia calato praticamente del 32% tra il 2010 e il 2011, da 620 euro a 420 euro, il risparmio medio, quindi una media con tutti i limiti che ha per famiglia, dal 2010 al 2011. Però le banche fanno sapere che hanno aumentato i prestiti alle famiglie del 5,5%, quasi il doppio rispetto alla media euro. Di questo ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms. Vi dico un tema invece che non toccherò più, perché insomma ne abbiamo già dato ampio risalto, ed è quello che sta succedendo agli spread in questo momento. Alcuni scrivono, non molti, ma allora non c'è più Berlusconi, doveva cambiare tutto. Ripeto, uno la può pensare come vuole, noi siamo qui per darvi i fatti e i numeri. Due settimane fa, in piena crisi, lo spread italiano arrivò a 570 punti, la borsa continuava a calare e le indicazioni arrivavano a livello internazionale. Ora, e ricordo anche che alla Camera il governo di allora non ottenne la maggioranza, la ottenne solo per il non voto delle opposizioni, 308 deputati infatti non sono la maggioranza della Camera. Poi uno può pensare che il governo Berlusconi sia stato costretto a dimettersi per colpa della stampa italiana, è libero di pensarla. Noi ci limitiamo a riportare i fatti. Dentro il PDL, come avete letto oggi sui giornali, c'è chi ritiene invece che Berlusconi abbia deciso di dimettersi perché Mediaset aveva perso nell'arco di tre giorni il 20%, segnali anche sul titolo Mediaset. pensatela come volete, i fatti però restano quelli, mi dispiace per voi o per chi non la pensa in questo modo, difficile che un governo si dimetta per l'attacco della stampa italiana, più facile che invece avvenga per le pressioni internazionali, dei mercati soprattutto, e fermo restando che la controstoria non esiste, cioè noi non sappiamo dove sarebbe lo spread adesso se non fosse cambiato il governo. Un'ultima nota però, attenzione, il governo Monti è appoggiato anche e soprattutto dal PDL, quindi non c'è stato il ribaltone come scrivono alcuni al 349-238-6666, avete letto le dichiarazioni anche dell'ex Presidente del Consiglio, l'appoggio a Monti per le riforme è un appoggio totale da parte del PDL, poi vedremo quando arriveranno le misure, quindi attenzione a dire è cambiato il governo, è cambiata la maggioranza che lo sostiene, cioè tutti i partiti tranne la Lega. 349, dicevo, 238-6666. E adesso vediamo come sono andati anche gli spread, ma soprattutto le aste, e una nello specifico, l'asta spagnola dei titoli di Stato. Allora, lo spread oggi ha conosciuto nuove tensioni. Perché? Perché è partita male la giornata dopo che in America non si è riuscito ad avere un accordo nella supercommissione anti-deficit. Erano le 11:15 di ieri sera in Italia. Non è possibile raggiungere un accordo bipartisan, si è letto in una nota negli Stati Uniti, cioè tra repubblicani e democratici. Tra l'altro oggi dagli Stati Uniti è arrivata anche una revisione al ribasso della crescita americana nel terzo trimestre, dal 2,5% al 2%. E poi Moody's, pur confermando il voto sul debito americano AAA, dà un outlook, ossia una prospettiva negativa sul debito americano. La mattinata come inizia? Lo spread, quindi la differenza tra quanto costa noi indebitarci rispetto a quanto non costa i tedeschi, va a 473 punti, la Spagna 465, si è molto ridotto la differenza tra noi e la Spagna, è arrivata a essere a 100 punti, ormai siamo a 10 punti di differenza, la Francia è a 157. L'asta dei titoli di Stato spagnoli viene interamente coperta, lo si sa, alle 11:30 di questa mattina, 3 miliardi di obbligazioni spagnole collocate, i tassi però sono schizzati. Perché per la tranche a 6 mesi si è passati dal 3,3% di rendimento di ottobre al 5,22% di novembre, 2% in più, è tanta roba per un'asta, fermo restando che sono solo 3 miliardi, ma insomma immaginate se anche la Spagna, come l'Italia, dovesse rifinanziare il suo debito a questi livelli. La Banca Centrale Europea ha comprato nel frattempo, lo rende noto a ora di pranzo, BTP italiani, lo spread italiano però vola verso le 3 di pomeriggio a 490 punti, il rendimento al 6,79%, salgono in contemporanea anche quelli francesi, 170 punti, belgi 312 e spagnoli 473 punti. La cosa che preoccupa è che il rendimento del BTP italiano a 5 anni è identico, anzi leggermente, identico diciamo, a quello a 10 anni. Ora, in un periodo normale dovrebbe essere l'opposto, cioè dovresti essere più sicuro e quindi avere un rendimento più basso sui 5 anni e un rendimento magari più alto sui 10 anni, perché ci sono più incognite, più va avanti, più lunga la scadenza di un BTP. Vedere l'inversione della curva, come si chiama in gergo, non è un bel segnale, vuol dire che il mercato non dà un prezzo a 10 anni, o meglio lo dà, ma è più preoccupato sul breve termine. Sui 5 anni. Ancora, lo dico a alcuni ascoltatori, potete continuare a scrivere quello che volete sul fatto che Berlusconi è stata una vittima del complotto della stampa italiana, non vi rispondo più, i fatti ve li ho ricordati, andate a vedere lo spread, andate a vedere i rendimenti, andate a vedere quello che capitava in borsa, su, andiamo avanti. Il debutto di Mario Monti al Parlamento europeo, ha detto il commissario europeo agli affari economico e monetari Olli Rehn, parlando a Berlino: in Italia c'è una chance di cambiamento in positivo. E poi il presidente della Bundesbank Hans Widmann ha detto: sulla risolutezza dell'Italia non devono esserci nuovi dubbi, sono fiducioso del fatto che i nuovi governi prenderanno sia in Spagna che in Italia le misure necessarie. E poi ha detto: il governo Monti in Italia ha bisogno di un sostegno del Parlamento affidabile e costante. L'Italia ha una struttura economica solida, ha detto, ma molta fiducia nella politica è andata perduta. Ora, per carità, il presidente della Banca Centrale, tedesca può dire quello che vuole, ci mancherebbe. Faccio notare che da noi sarebbe un po' strano che il governatore della Banca Centrale commentasse quello che deve fare il Parlamento tedesco, no? E allora, visto che siamo tutti con la pari dignità, magari Widmann poteva anche risparmiarsi il giudizio su quello che deve fare il nostro Parlamento. Il nostro Parlamento farà quello che decide di fare, come in ogni democrazia. È inutile dire sostenga Monti, e che è un ordine. Grazie per alcuni insulti, ma molti vogliono sapere dell'intervento di Nigel Farage al sì, l'abbiamo visto tutti. Devo dirvi che non mi ha convinto per nulla, così mi becco altri insulti. L'europarlamentare che sosteneva che tutta la mossa fosse dovuta all'attacco dei poteri forti non mi convince per niente, perché quando tu hai 1.900 miliardi di debito è chiaro che sei facilmente attaccabile. Voglio dire, la crescita italiana per l'anno prossimo è prevista allo 0,1%, quest'anno arriveremo allo 0,4%, ma voi immaginate un'impresa che cresca nel fatturato dello 0,1 o dello 0,4 e debba restituire i soldi che ha avuto in prestito a tassi del 7,6-80%. Non regge, questo lo capisce anche un bambino. Comunque, torniamo alla missione, la prima missione ufficiale del Presidente del Consiglio Mario Monti, che ha incontrato il Presidente della Commissione Europea Barroso, il Presidente Permanente Van Rompuy, e poi invece giovedì il vertice a Strasburgo con Merkel e Sarkozy. Ieri la fiducia che ha palesato Barack Obama in una lettera a Monti e sulla competenza dell'esecutivo. Monti, Barroso, Presidente della Commissione Europea, ha detto: l'Italia è determinata a superare le sfide, Monti ha l'autorità per guidare l'Italia, c'è una sfida immensa di fronte per Monti e per il suo governo, la situazione dell'Italia resta difficile, non mi aspettavo comunque miracoli, non c'è nessun cambio magico, ma uno sforzo costante. La situazione che riguarda l'Italia resta difficile, questa è la realtà. Ecco perché credo che il nuovo governo guidato da Mario Monti abbia una responsabilità storica. Penso che la sfida sia immensa, ma certamente nessuno si aspetta miracoli. E sui mercati finanziari i miracoli generalmente non accadono. Si tratta invece di sforzi continuati. Non mi aspettavo un cambiamento magico solo dopo qualche annuncio. Ho usato molto spesso un'espressione, ossia che non è uno sprint ma una maratona. Occorre uno sforzo continuo e costante da parte dei paesi più esposti per conquistare la fiducia sui mercati. Ma servono anche riforme, perché la crescita è uno dei punti centrali. Questo processo richiede tempo e non possiamo cambiare la percezione dei mercati da un giorno all'altro. L'Italia deve continuare a fare sforzi per guadagnare la fiducia degli investitori, perché ci sono ancora preoccupazioni considerando l'evoluzione degli spread. E poi Monti, lo ascolteremo anche nella seconda ora del programma. Il programma indicato dal governo precedente durante il summit del 26 ottobre sarà il nostro punto di partenza. Questa è la dimostrazione che non c'è nessun ribaltone, ma c'è una maggioranza più allargata, compresa la vecchia maggioranza, tranne la Lega che appoggia questo governo, e Monti lo ha indicato. ripartiremo da quanto promesso dal precedente governo, quello Berlusconi, nel vertice europeo dello scorso 26 ottobre. Ancora andare avanti su misure strutturali, saremo più incisivi, e qui c'è una piccola stoccata, saremo più incisivi sulle riforme rispetto al governo precedente, andrà più a fondo nelle riforme istituzionali rispetto a quanto fatto dal governo Berlusconi. Un punto fermo per il governo italiano e anche un elemento di continuità rispetto al precedente governo, condiviso dalla larghissima maggioranza che ci ha sostenuto in Parlamento, è quello delle conclusioni per quanto riguarda l'Italia del Consiglio europeo, quindi il programma come là è stato indicato sarà il punto di partenza della nostra azione. Rispetto al governo precedente, essendo cambiate le condizioni ed essendoci in questo momento, e farò di tutto per mantenerlo vivo, un consenso più ampio, un clima meno conflittuale, una maggiore volontà di cooperazione tra le forze politiche e le forze sociali, credo che potremo andare più decisamente a fondo in senso buono, fino in fondo, scusate, incisivamente, per quanto il Presidente conosce così bene l'italiano che sa cogliere anche queste sfumature, per quanto riguarda le riforme strutturali che già sono state a grandi linee indicate nel programma e sulle quali abbiamo iniziato a lavorare. Beh, non male il lapsus, andremo a fondo, scusatemi, fino a fondo, in fondo, è venuto da ridere anche lo stesso Monti, non è facile sentire Monti che ride ancora. Alcuni vogliono un commento sul decreto Roma Capitale, era un decreto del precedente governo che ieri il nuovo governo ha sbloccato, l'opposizione della Lega era nota. Speriamo che li porti a 48. Alle mani, consiglieri, questo è il mio augurio, il nome è 60. Allora, la vicenda Fiat. Fiat ha annunciato, come vi abbiamo ricordato anche ieri, la disdetta di tutti gli accordi sindacali dei contratti dal 1 gennaio 2012. L'obiettivo di Fiat è armonizzare tutti i contratti, quindi la disciplina delle varie fabbriche, sul modello degli accordi di Pomigliano, che prevedono 120 ore di straordinario comandato, mentre sono solo 40 nel contratto dei metalmeccanici, 18 turni invece nel contratto sono 10, quello nazionale, 10 minuti in meno di pausa, aumento di 30 euro dei minimi tabellari. Per ora la disdetta riguarda solo Fiat Auto, ma presto verrà estesa agli stabilimenti Fiat Industrial, quindi CNH e Iveco, per un totale di circa 70.000 lavoratori interessati. Allora, dura, nonostante oggi i giornali riportino di una Camusso che sotto traccia cerca di convincere il leader della FIOM Landini, formalmente duro il commento di Susanna Camusso, segretario generale della CGIL. Non è noto e non conosciuto qual è il piano industriale della Fiat. Fiat continua a cercare di scaricare sui lavoratori la conseguenza delle sue non scelte. Abbiamo visto come ha risposto, o meglio non risposto, alla Consob. Il tema continua a essere questo. Speriamo che il governo sia in grado di convocare un tavolo sulle questioni della politica industriale e sul piano della contrattazione. Non abbiamo cambiato e non cambiamo opinione. E così Susanna Camusso, mentre il leader della FIOM Maurizio Landini, intervistato dalla nostra Alessandra Schepisi, dice: attenzione, siamo pronti allo sciopero generale, partiamo subito con 2 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Fiat. andremo a fare le assemblee in tutti i luoghi di lavoro della Fiat proclamando 2 ore di sciopero. Dopodiché diciamo in modo molto esplicito che questo è un attentato al contratto nazionale di lavoro e invitiamo in questo caso anche le altre organizzazioni sindacali a non procedere su questa strada, perché non solo cancellano il contratto nazionale ma cancellano anche le libertà sindacali. L'effetto di questo accordo sarebbe che la FIOM CGIL non avrebbe, secondo loro, più diritto ad esistere negli stabilimenti Fiat. Questo è un atto di rottura del sindacato confederale nel nostro paese che non risolve nulla. In più, noi denunciamo il fatto che non c'è alcun piano industriale da parte della Fiat e tutto questo viene fatto a gratis perché nel frattempo gli investimenti non si fanno e continuano a esserci chiusure di stabilimenti e ricorso alla cassa integrazione. Noi siamo un sindacato che quando è possibile fa gli accordi, siamo il sindacato che fa più accordi in Italia. Vorrei però far notare che con la Fiat da questo anno e mezzo di accordi non è mai stato possibile farne perché la Fiat non fa trattative, impone le condizioni. Così Landini. Allora, un ascoltatore, lei riesce a riportare in maniera faziosa anche una frase? No, noi leggiamo i titoli delle agenzie, non è che eravamo a Bruxelles fisicamente, e l'agenzia su Monti, testuale, l'ANSA, il titolo è Monti, due punti, saremo più incisivi su riforme di sulle riforme rispetto al governo precedente, ore 15:22. Fatelo una ragione, insomma. E poi se possiamo, se posso permettermi, possiamo guardare anche in avanti a questo punto. Cioè oggi per esempio il neo ministro welfare Elsa Fornero ha detto a proposito della Fiat, la disdetta dei contratti è una questione delicata, va trattata con grande attenzione, va bene. E invece il neo ministro dello sviluppo economico Corrado Passera su Termini Imerese ha detto ce ne stiamo occupando, stiamo seguendo il tema che è molto importante, e va bene anche questo. Dico una cosa, a me non interessa che vi siano nugoli di dichiarazioni dei neoministri, già nel passato abbiamo avuto sempre tante dichiarazioni di intenti e poi pochi fatti concreti, lo dico come riforme, stessero anche zitti, però poi quando parleranno, parlassero nel futuro di riforme e provvedimenti veri, non di quello che hanno intenzione di fare, ma di quello che porteranno come iniziativa legislativa di fronte alle Camere. Questo vorremmo vedere, fatti e non altro. Allora adesso una chicca, perché adesso parliamo di stipendi dei top manager che la crisi non l'hanno manco vista, però attenzione, l'ha affermato alla fine la Guardia di Finanza, era mentre viaggiava a bordo della sua Porsche Cayenne ai pressi del lago di Iseo. Imprenditore bergamasco è un vero recordman nell'evasione fiscale, questo lo dico perché al di là della professione, imprenditore, partita IVA, quello che è, lì c'è parecchia ciccia, lo diciamo anche al neo ministro e soprattutto al neo premier. 49 anni, imprenditore bergamasco, recordman dell'evasione, in 20 anni non aveva mai presentato una dichiarazione dei redditi, tutto era intestato a un prestanome residente in Kenya. Un comportamento di cui questo falso nullatenente si è tra l'altro apertamente vantato. Praticamente ha nascosto, secondo la Guardia di Finanza, redditi per 7 milioni di euro ai fini dell'imposta diretta dell'IRA, più un altro milione di IVA. È probabile che però esca anche qualcos'altro. Complimenti. Andiamo bene, proprio bene. E adesso la nostra sorella Lella la tiriamo fuori per un altro motivo, perché nel ringraziare il professor Mario Vavassori che insegna, che è amministratore delegato di UDM Consulting ed è anche docente al Politecnico di Milano, nonché collabora con Sole 24 Ore trimestralmente con il rapporto sulle retribuzioni. Buonasera Vavassori. Buonasera a voi. Parleremo dopo il meteo e la pubblicità del salario dei manager, perché c'è una notizia di oggi che ci ha lasciato esterrefatti. Allora, dalla Gran Bretagna arriva la notizia. La paga dei top manager britannici continua imperterrita a crescere nonostante la Gran Bretagna vive in un clima di austerity e non da oggi. Praticamente, secondo la ricerca condotta da ONG Compass, praticamente negli ultimi 30 anni Il salario dell'amministratore delegato di società quotate, delle 100 società quotate sul FTSE 100 è aumentato fino al 4.900%. Il caso più eclatante è quello della Barclays, una banca, devo dire, non di quelle peggiori durante lo scoppio della crisi, ma insomma. Allora, nel 1980 la retribuzione del numero uno della Barclays era 14 volte e mezzo lo stipendio medio dell'azienda. Sapete quanto è arrivato adesso? 75 volte, a 4.300.000 sterline. Non è solo sulle banche, però. Alla British Petroleum, nello stesso periodo, si è passati da 16 volte la paga media a 63 volte la paga media. Al gruppo JKN, settore metallurgico, da 15 volte a 47, nel settore minerario da 44 volte a 113 volte. Pensate che il numero uno della Barclays nel 2011 ha ricevuto 4,3 milioni di sterline, nell'80 87 mila sterline, cioè siamo appunto a meno di un terzo. E stessa cosa anche per British Petroleum, 4,4 milioni, numero uno nel 2011, nel 1980 143 mila sterline. Vorrei capire come mai i top managers non hanno sentito la crisi, sia che lavorino per la British Petroleum, che ricorderei non è che venga da un periodo brillante, se vogliamo pensare al Golfo del Messico, né, e anche nel caso delle banche, che non è che esattamente abbiano brillato in questi ultimi tre anni tra prodotti tossici e quant'altro. Dopo il meteo però, 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra poco commenteremo anche la borsa, che ha chiuso con un calo dell'1,5%, strappo nel finale della Popolare di Milano, più 9,97, nell'ultima mezz'ora ha preso 6-7 punti percentuali. Allora, Mario Bavassori, chiariamo subito il tema degli stipendi e delle retribuzioni. È chiaro che dire che c'è la casta dei top manager è sbagliato, nel senso che non sono pagati dai contribuenti, sono pagati dagli azionisti, e quindi sono attività di società private. Altra cosa, è anche qui alcuni scrivono, ma insomma, se uno è bravo che venga pagato tanto, siamo d'accordo, fate l'esempio anche dei calciatori, va bene. Il problema è capire se vi è una corrispondenza, e soprattutto però in un periodo in cui a tutti si chiedono sacrifici, a tutte le categorie, pensionati, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e quant'altro, insomma, se ha un senso vedere che continua a lievitare il rapporto tra quanto becca il top manager e quanto prendono invece la media dei dipendenti. È anche vero che Barclays non ha mai avuto nessun tipo di aiuto dallo Stato, ma non c'entra, non è questo il punto. Allora, oltre alla Gran Bretagna, dove sono triplicati, ripeto, se negli anni 80 era tipo 14-15 volte lo stipendio del top manager rispetto allo stipendio del medio del dipendente del gruppo, siamo passati ai livelli di 75 volte, 63 volte, 113 volte. Negli Stati Uniti è andata anche peggio, perché negli anni 70, pensate, non è che negli anni 70 non si facesse ricchezza negli Stati Uniti, il rapporto tra top manager e media dei dipendenti, del lavoratore medio, era 1:35, cioè lui, se uno guadagnava $1,000, il suo top manager ne guadagnava 35.000 al mese. Si è passati nel 2007 a praticamente un rapporto di 275 volte superiore, cioè se uno guadagna, se il lavoratore medio nella tua azienda guadagna $1,000, il top manager al mese ne guadagna 275.000. C'è una categoria di manager che non sente la crisi, che diciamo che sfugge a qualunque tipo di contrazione salariale? No, dunque, il mondo anglosassone ha delle sue regole e dei suoi comportamenti, bisogna dirlo, che sono assolutamente non paragonabili con i nostri. Adesso poi do qualche numero anche sull'Italia, perché l'Italia ha delle dinamiche leggermente diverse. C'è una cosa nello studio che hai citato che dice che se la progressione del passato fosse mantenuta nei prossimi 10 anni, si arriverebbe a uno stipendio, a un rapporto, a un multiplo cosiddetto di 214. Scusa, un rapporto? Di 214. Okay. Cioè un top manager inglese potrebbe arrivare ad avere 214 volte lo stipendio medio dell'Inghilterra. Noi che situazione abbiamo? La nostra situazione oggi è intorno a 45, a un multiplo di 45, cioè rispetto ad esempio a un neolaureato che entra in un'azienda prende circa 24.000 euro lordi ovviamente, e un amministratore delegato dello stesso settore, in particolare del settore finanza, che è quello più pagato, è 45 volte superiore, cioè 1.108.000. Se noi però andiamo a confrontare, questo è il dato interessante almeno per l'Italia e credo anche per gli altri paesi, andiamo a confrontare, andiamo a vedere come è composto questo 1.183.000, c'è stato un grosso cambiamento in Italia negli ultimi due anni. Nel 2009 la parte ad esempio variabile, cioè collegata con le performance dell'azienda, era abbastanza bassa e più che raddoppiata. È diventata, ad esempio nel caso specifico di un direttore generale, da 150.000 euro è diventata quasi 400.000 euro, quella legata alla performance. Cioè noi abbiamo visto, analizzando tutte le aziende che sono quotate in borsa, quindi analizzando 4.000 profili retributivi, posizioni retributive, che nell'ultimo anno rispetto all'anno precedente c'è stato un cambiamento, cioè si è avviata una nuova, come dire, una nuova era probabilmente, anche per le regole che sono state come dire, dettate sia dalla Consob, sia dal Fondo Monetario, sia dalla BCE. E dalla Banca d'Italia, ovviamente. Allora, se ho ben capito, tu dici c'è una differenza netta tra il mondo anglosassone e quello italiano. Giusto ricordare che se va avanti così in Gran Bretagna, nel 2020 aumenterà ancora di più il divario tra salario del dipendente medio o salario medio del dipendente, per essere più corretti, rispetto al top manager. Si arriverà dall'attuale 145 volte, che già è un'enormità rispetto alle 40 volte degli anni 80, a 214 volte. Tra l'altro lo 0,1% più ricco della popolazione britannica guadagna il 6,5% della ricchezza prodotta in un anno. Nel 2035, sempre su questa proiezione, si arriverà a uno 0,1% della popolazione che rappresenterà il 14% della ricchezza prodotta in un anno. Quindi aumenta la forbice tra i happy few e many unhappy, mettiamola così. In Italia, tu dici, la dinamica è un po' diversa. Come mai guadagnano di più i direttori generali, una media di 1.100.000 euro, ossia 45 volte lo stipendio di un neolaureato, rispetto agli amministratori delegati, che sono una carica più importante, 816.000 euro? Sì, perché molte volte, spesso, i direttori generali sono molto operativi, intervengono direttamente sulle, come dire, hanno le leve di governo vero, di governo operativo. L'amministratore delegato è più, diciamo, il rappresentante spesso dell'azienda e interviene meno sulle operation, mentre il direttore generale interviene sulle operation e quindi è anche in grado di modificare la performance, di migliorare la performance. Infatti, se andiamo a vedere la parte variabile dell'amministratore delegato, è rimasta sostanzialmente inalterata, perché all'amministratore delegato spesso, almeno le nostre aziende quotate in borsa, non chiedono una correlazione diretta con la performance, ma lo chiedono più al direttore generale. Cioè il legare la retribuzione all'andamento dell'azienda o magari del titolo in borsa, questo vuol dire? Esatto. Ecco, la cosa interessante che noi abbiamo visto confrontando il 2010 col 2009 è che la correlazione con la performance dell'azienda si è leggermente modificata, finalmente si muove. Noi avevamo una situazione di, lo dico con una certa enfasi, 0,005 di correlazione, cioè nulla. Cioè in sostanza 2009. Lui guadagnava anche senza risultati, diciamo. Esatto. Questo è il problema. Per effetto degli interventi che sono stati fatti, appunto come dicevo prima, da tutti gli organismi nazionali e internazionali, siamo passati finalmente a uno 0,2, che è molto lontano da uno 0,5, comunque siamo sulla buona strada. Questo vuol dire che si è invertita un po' la tendenza precedente. Allora vorrei sapere, dopo il traffico, un'ultima cosa, poi passiamo alla borsa, come invece si sono mosse le paghe, gli stipendi, le retribuzioni degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti normali che voi fotografate ogni tre mesi come ODM Consulting, e poi la borsa, dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, Davassori, abbiamo capito che anche in Italia, seppur non con le dinamiche britanniche, i direttori generali hanno e gli amministratori delegati hanno sentito poco la crisi, visto che comunque è il rapporto di 1 a 45 rispetto allo stipendio del neolaureato, e che comunque però si è tornati a collegare un po' di più quello che è il bonus, quindi la parte variabile della retribuzione, ai risultati, finalmente, perché sennò non se ne poteva più di vedere milionate e milionate date in buona uscita a soggetti che obiettivamente hanno impoverito le aziende. Lo dico e qui mi fermo per non fare nomi e cognomi, ma ci sono i nomi e cognomi. Dirigenti, quadri, dipendenti, impiegati e operai, le dinamiche. Ultimo dato disponibile, 106.000 dirigenti, medio ovviamente, lordo, 53.500 i quadri, 27.000 gli impiegati. 106.000 euro lordi, la media dei dirigenti, ok? I dirigenti, 53.500 i quadri, 27.000 gli impiegati e 21.700 gli operai. Ovviamente sono tutti dati lordi. Medi, certo, lordi. Se noi guardiamo gli ultimi 5 anni rispetto all'inflazione, soprattutto l'inflazione ad alta frequenza, cioè calcolata sui beni più diffusi, i beni più consumati, siamo tutti sotto. Siamo sotto di alcuni punti. Cioè, mi stai dicendo che nessuno di questi ha recuperato in termini reali l'inflazione, quella che l'Istat chiama inflazione dei generi, esatto, a maggiore frequenza. Rispetto all'inflazione invece, quella del paniere, diciamo, quindi quello globale, abbiamo la categoria degli impiegati che è leggermente sopra e la categoria dei quadri, mentre operai e dirigenti sono ancora sotto. Sono sotto di qualche punto. Questa è un po' la situazione generale, che rispecchia peraltro la situazione economica generale. Perché se nell'ipotesi che abbiamo letto del governo Monti c'è anche far pagare, partisse dagli amministratori delegati e dai... Teniamo conto anche di questi dati. Perché così, no? Non vorrei che qualcuno, memore del suo passato... avesse un po' di accondiscendenza verso queste cariche di amministratori delegati di banche o direttori generali di grandi imprese. Grazie a Mario Vassori, appunto, che come ogni tre mesi ci racconta come si muovono nella media le dinamiche salariali. Adesso andiamo a parlare della borsa. Meno 1,5% Milano, la peggiore. Parigi meno 0,80%, Francoforte nel finale peggiorata parecchio, è meno 1,22%, l'America meno 0,80%, Londra meno 0,30%. Allora, che è successo negli ultimi mezz'ora da quando è iniziato il programma praticamente? Perché c'è stato un peggioramento complessivo a Francoforte, ma anche a Milano no come indice, ma la Popolare di Milano ha guadagnato il 10% nel finale, però gli altri titoli hanno avuto una contrazione. Lo chiedo come sempre ai colleghi di Radio Colle sulle 24 ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Sì, nel pomeriggio tutti i listini sono peggiorati, Piazza Affari ha guidato i ribassi, il FTSE MIB ha chiuso in calo dell'1,54%, trascinato in basso soprattutto dai titoli delle banche. UniCredit ha lasciato sul parterre oltre il 4%, Intesa San Paolo il 2,4% e Banco Popolare oltre il 5%. Questo perché è tornato un po' a far paura lo spread che è risalito, è tornato in area 490 punti base, anzi, a dire la verità, poco prima che chiudessero le contrattazioni a Piazza Affari si era portato anche sopra i 490 punti base, quindi questo penalizza soprattutto il settore ovviamente delle banche, visto che ricordiamo le banche sono ricche di titoli di Stato. Poi, come ha detto tu, la BPM in verità proprio sul finale è volata quasi del 10%, ricordiamo però che era scivolata molto, i titoli si attestano a 0,28 euro sotto gli 0,30 euro a cui sono state messe le nuove azioni. Ricordiamo anche che il consorzio che ha garantito l'aumento di capitale che si è chiuso la scorsa settimana, a breve, non sappiamo ancora quando, offrirà di nuovo sul mercato l'inoptato, quasi il 20%, visto che le adesioni sono state pari all'82%, e lo offrirà ovviamente a 0,30 euro, quindi un livello inferiore. Detto questo, comunque poi sulla BPM sale l'attesa anche per quello che succederà nell'ambito dell'istituto. Sappiamo che i vertici della banca hanno dato mandato a una società di consulenza per cercare 30 manager e poi anche la figura del cosiddetto consigliere delegato. Sì, Una precisazione a chi scrive: non ho mai detto che Monti debba calmierare gli stipendi degli amministratori delegati e direttori generali di aziende private, ma ci mancherebbe. Abbiamo solo detto che, visto che tra le misure ipotizzate c'è anche una misura sui patrimoni più ricchi, su chi più ha, lo ha detto Monti chiaramente in Parlamento, ecco, tenesse conto anche di come sono mossi gli stipendi degli operai, dei dipendenti, dei quadri, dei dirigenti rispetto agli stipendi dei top manager. Tutto qua. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento di borsa. Stavo dicendo prima dell'interruzione che a Dubai l'indice di borsa è crollato ai minimi da 7 anni, perché il gigante immobiliare Emaar, costruttore tra l'altro del grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa di Dubai, ha perso tra l'altro il 33% del proprio valore da inizio anno. Tra virgolette, insomma, il mercato immobiliare a Dubai resta ancora difficilissimo. Chiuso questo, c'è una notizia invece di Leonora Micheli che arriva dalla Germania, lo ha pubblicato il quotidiano economico finanziario nella sua versione online Handelsblatt, cita una perdita di 5 miliardi per il colosso tedesco Commerzbank. Il titolo oggi ha perso il 15% in borsa, una bella sberla, e spiega anche il peggioramento di Francoforte negli ultimi minuti, da quello che ho capito. Sì, esatto, infatti anche il titolo, come hai detto tu, è crollato di oltre il 15%, e a questo punto gli investitori temono che sia breve annunciato un maxi aumento di capitale. Io spero che non sia vero, nel senso che mi dispiacerebbe che i tedeschi dovessero ammettere che, pur avendo sicuramente un grande rigore nei conti pubblici, hanno delle banche piene di titoli che andranno svalutati, magari greci, magari di altri paesi, magari anche titoli tossici. Sarebbe un po' un dover ammettere che anche il primo della classe ogni tanto qualche toppa la prende. Comunque. Sì, poi tra l'altro questo va detto che confliggerebbe un po' anche con le indicazioni dell'EBA, che aveva detto che Commerzbank aveva necessità di rafforzare il capitale per 2,9 miliardi, ma sempre in quei giorni era venuto un po' fuori che comunque le banche tedesche e la stessa Commerzbank non avrebbero dovuto effettuare aumenti di capitale veri e propri, in quanto semplicemente azzerando i dividendi o piuttosto cedendo asset core, cioè non appunto importanti per la banca, sarebbero riusciti comunque ma io glielo auguro, nel senso che non voglio che vi siano problemi sulle banche tedesche, nessuno le vuole augurare, dico solo attenzione, perché a noi risulta che invece proprio le banche tedesche abbiano fatto incetta di prodotti anche a rischio in questi anni, anche le banche francesi. Siccome oggi commentavamo in apertura una dichiarazione un po' saccente del presidente della Bundesbank, cioè il governatore della banca centrale tedesca, che, voglio dire, parlasse delle sue banche a sto punto, com'è che si chiama, adesso lo riprendiamo, Weidmann, no? Hans Weidmann, il quale invece che occuparsi del problema di Commerzbank evidentemente si occupa del Parlamento italiano, perché ha detto: il governo Monti in Italia ha bisogno di un sostegno del Parlamento affidabile e costante. L'Italia ha una struttura economica solida, ma molta fiducia nella politica è andata perduta, quindi ha chiesto al Parlamento di sostenere Monti. Noi lo ringraziamo, però Ofelè Faltomestè, lui si occupasse delle sue banche e dei problemi che hanno nelle svalutazioni possibili, e noi ci occuperemo del nostro Parlamento del sostegno che anche a nostro avviso dovrebbe dare al governo Monti, ma che mi sembra che ci sia, cioè sentire anche l'invito del, immaginate se voglio dire, il governatore della Banca d'Italia facesse lo stesso invito al Bundestag tedesco. Apriti cielo. Vabbè. Andiamo avanti invece sui titoli. Per quello che riguarda le banche italiane, la giornata è stata un'altra giornata da dimenticare. Unicredito meno 4,20%, Popolare Emilia Romagna meno 4%, Azimut meno 6,30%, Banco Popolare meno 5,80%, Fondiaria meno 5,70%, Monte dei Paschi meno 3,30%, Intesa San Paolo meno 2,40%. Sì. Le banche sono andate male, come hai detto tu, particolarmente male. Però scusa, c'è BPM, scusa se ti interrompo, che ha fatto, me l'abbiamo già commentato, più 10% nel finale, lo dico per chi si fosse appena messo in collegamento, scusa l'interruzione. Sì, sono andate particolarmente male, continuano a far paura ovviamente gli spread, che lo spread italiano in particolare quest'oggi si è riportato attorno alla soglia dei 490 punti base. Poi va analizzato istituto per istituto. Il Banco Popolare ad esempio potrebbe questa mattina si diceva beneficiare, tant'è che le azioni andavano su, nel pomeriggio invece si dice che magari potrebbero uscire anche notizie negative. Qualche notizia uscirà di sicuro sabato, quando si riuniranno i soci nell'assemblea che dovrà deliberare sul ritorno alla governance tradizionale e sulla nascita di una banca unica. Comunque i titoli di Banco Popolare hanno fatto peggio rispetto alle altre banche, di sicuro tutti i titoli stanno su livelli molto bassi, ad esempio facendo esempi concreti Unicredit ha ridotto rispetto a inizio anno, perde oltre il 50% del proprio valore e solamente diciamo anche da metà mese ha accusato una pesante flessione, visto che appunto ha risentito tanto dell'aumento di capitale quanto dell'annuncio dei conti, risultati assai deludenti, visto che si sono chiusi con una perdita di 10,6 miliardi. Ancora ST Microelectronics molto male oggi, meno 5,40. Che succede? In questo caso diciamo che è colpa della concorrenza, nel senso che nei giorni scorsi alcune società hanno pubblicato conti poco convincenti e poi nella notte Analog Devices, un'azienda americana, ha registrato una trimestrale che è stata criticata dagli analisti. Infatti l'utile è calato, è un'azienda concorrente di ST, produce chip, ma ha registrato un utile in calo del 18%, soprattutto a causa della contrazione delle vendite, e quindi questo fa temere che proprio il settore dei chip veda una contrazione delle vendite in generale, cosa che dovrebbe poi registrarsi, dovrebbe far abbattere i propri effetti anche sulla stessa ST. Almeno questo è il ragionamento del mercato. Allora, vedo che alcuni scrivono attenzione, ne vedremo delle belle con Deutsche Bank, altro colosso bancario tedesco. Io mi auguro di no, dico semplicemente sarebbe paradossale che chi ha dato lezioni fino adesso su non bisogna salvare la Grecia e poi questo ci ha costato 1.000 miliardi di svalutazioni in un anno, cara Frau Merkel, e chi continua a darci lezioni, addirittura il governatore della banca della Bundesbank, che dice cosa deve fare il Parlamento italiano, sarebbe paradossale scoprire che c'hai dei problemi in casa. Mi auguro per i tedeschi che non sia così e che invece loro dimostrino che sono assolutamente puri, oltre che duri, perché non basta essere duri. Ancora, questo è l'effetto, scrive un ascoltatore, dello sputtanamento del paese che avete creato voi giornalisti. Vabbè, cioè non sono stati i comportamenti della classe politica, siamo stati noi a creare lo sputtanamento. Va bene, continuiamo così. Allora, Pirelli e Prysmian. Sì, Pirelli e Prysmian sono rimbalzate tutte e due, soprattutto Prysmian più 2,9%, d'altro canto sono scivolate su prezzi molto bassi. Per quanto riguarda Pirelli sono circolati diversi report positivi di banche d'affari in cui si era iniziato a ragionare anche sulle indicazioni che i vertici della società avevano dato di recente sul piano industriale, un piano che piace e che tuttavia è passato del tutto in ombra a causa dell'andamento del mercato negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Invece il tentativo di Finmeccanica di rimbalzo è veramente poca cosa, più 0,27%, il titolo ha perso il 30% dopo i conti, il rosso, le prospettive ancora più negative diffuse la settimana scorsa e poi le vicende giudiziarie che riguardano il presidente, ma allora mi è stato legato Guarguaglini e sua moglie, la numero uno della Selex. Molti di voi ci chiedono, insomma, noi non abbiamo semplicemente detto ieri, parlando in maniera approfondita, che forse un passo indietro in questi casi sarebbe d'obbligo, visto che il gruppo ha dimezzato quasi il suo valore da inizio anno, ha problemi anche di commesse. Insomma, fare chiarezza significa anche fare un passo indietro, tanto ormai il presidente Guarguaglini l'ha fatto per anni, anche la Marina Grossi, e poi certo che potrebbe intervenire il governo, è il principale azionista di Finmeccanica, magari Monti quando torna dall'Europa si occuperà anche di questo. Grazie Don Michele, Radio Corriere sulle 24 ore, migliori e peggiori in assoluto. Banca Popolare di Milano, l'abbiamo detto, risanamento più 11,30 e Digital Bros più 7%. Peggiori in assoluto le Zucchi meno 35, Brioschi meno 13,80, Alcatel Lucent meno 12%. Continuiamo a parlare di banche, o meglio di prestiti delle banche alle famiglie italiane, dopo il traffico. 349-238-6666 per gli sms. La intensa, approfondita e lunga conversazione che ho avuto oggi con il Presidente Barroso ha riguardato le questioni di strategia dell'Unione Europea, economica e politica e istituzionale, più che aspetti specifici e puntuali. Sulle questioni di politica economica avrò occasione di approfondire il tema ricevendo a Roma venerdì il vicepresidente Olli Rehn. Per quanto riguarda la tematica degli impegni di finanza pubblica, ho già detto l'impegno assunto dal mio governo di rispettarli. La questione per quanto riguarda il 2013 non l'abbiamo trattata specificamente col presidente Barroso, l'abbiamo trattata solo, se posso dire, in termini generali per l'Unione Europea e non per l'Italia, cioè la questione se e come si debba tenere conto del ciclo nella determinazione quantitativa degli obiettivi. Così Mario Monti nel suo primo incontro internazionale oggi a Bruxelles con il Presidente dell'Unione Europea Barroso, ha detto appunto, come avete sentito, abbiamo mantenuto l'impegno del pareggio di bilancio nel 2013, secondo me sarà molto dura vista la bassa crescita per gli anni prossimi, comunque, ma non siamo entrati nel dettaglio delle misure. Chi invece è entrato nel dettaglio delle misure sono state le banche italiane che oggi hanno presentato dei dati sui prestiti alle famiglie, più 5,5% a settembre, quasi il doppio della media europea, più 3%, e però hanno anche fatto notare come si sia ridotta considerevolmente la propensione al risparmio. Nel 2010 il risparmio medio mensile per famiglie era di 620 euro, è passato adesso a 420 euro, meno 32%. Il dato in realtà lo ha presentato il direttore generale della Fondazione Censis, del Censis, Giuseppe Roma, che è in collegamento con noi. Buonasera, dottor Roma. Buonasera, buonasera a voi. Lei è l'autore del famoso decreto di ieri, Roma Capitale, no? Sì, no, non ho il doppio cognome. Non ha il doppio cognome. Senta, Roma, che cosa la contrazione dei risparmi è chiaro, ma l'invito alle banche che lei ha mosso qual è? Perché insomma... Beh, che devo dire, oggi in questo convegno c'era abbastanza un'area molto negativa. Capirai, vista l'aria. Quando mancano i soldi che bisogna fare il credito al consumo, quindi bisogna trovare dei prodotti e bisogna soprattutto... capire molto meglio le esigenze della domanda, di una domanda che pure nelle condizioni difficili in cui siamo, insomma, non è genericamente, generalmente priva di risorse. La famiglia italiana ha un forte patrimonio che è spesso immobilizzato e che si potrebbe forse meglio utilizzare, e soprattutto ci sono tanti aspetti e tanti gruppi che anche avendo oggi un basso reddito però hanno prospettive di crescita, quindi le banche dovrebbero anche affinare il loro modo di aiutare in qualche modo l'economia finanziando la famiglia e le famiglie. Cioè non solo il mutuo o il classico credito al consumo per comprare il televisore o l'auto, dice lei, ma inventarsi qualcosa di nuovo, cioè, visto che lavorano per dare credito... E quindi no, raccogliere e dare, e quindi degli strumenti nuovi. Ma non è che manchi una specie di cultura, mi passi il tema della domanda, nelle banche, cioè abituati a proporre i loro prodotti e a collocarli sul mercato con risultati delle volte anche più che dubbi, perché il vantaggio era solo per le banche, non per i clienti, ma insomma non è che gli manchi quella che si chiama nel mondo commerciale la cultura della domanda, cioè capire cosa vogliono i clienti e non collocare ai clienti che quello che sanno fare loro, manchi molto, specialmente in questo settore, diciamo, quello per le famiglie, ma questo si potrebbe dire anche per le piccole e medie imprese. Chiaro che fare l'accordo con un concessionario auto e quando arriva il cliente potergli offrire anche la vendita rateale, diciamo così, non è che sia proprio una grandissima novità, professionalità, no? Sì. Invece oggi ci sono tante cose, intanto anche ragionare su... La gente oggi ha paura, quindi anche quelli che non... che hanno delle risorse e non le spendono, lo fanno perché temono futuri possibili. Certo. Allora lì c'è da lavorare, perché non fare accumulare per esempio il risparmio a favore dell'acquisto dopo 2, 3, 4 anni di qualcosa, perché non passare anche a finanziare servizi oltre che beni, che sappiamo oggi avere anche dei limiti in sé. Cioè oggi comprare una macchina non è solo non la compro soltanto perché non ho i soldi, ma perché magari la vorrei più ecologica, la vorrei più piccola. Sì, lei dice, trovate nuovi prodotti, perché se continuate a fare, insomma, è adesso il momento in cui le banche devono dimostrare che sanno erogare credito in maniera sana e prudente, ma con formule anche nuove. Troppo facile limitarsi al mutuo, a applicare lo spread e qualcos'altro in più, così siamo capaci, tutti. Mi dica una cosa però, visto che lei è il direttore generale del Censis, vorrei chiudere su, insomma, come sta vivendo il paese questa situazione, il passaggio di consegne Berlusconi-Monti avvenuto non in maniera tradizionale, quindi tramite elezioni, ma sotto le pressioni internazionali, sotto una fiducia che è venuta meno alla Camera, sotto uno spread che era 570, vedo anche molti messaggi qui, non tutti, ma insomma, che dicono ecco, siamo stati vittime del complotto internazionale delle banche. Visto che avete molti sensori nel paese, che aria registrate? Ma guardi, io non penso tanto al complotto, certo, un po' di imposizione dall'Europa, questa è un'area che si sente, che quindi... Vabbè, non c'è dubbio che l'Europa e i mercati ci abbiano chiesto di cambiare rotta, questo è fuori discussione. Certo, su questo non c'è dubbio, e quindi si sente anche un po' la vittoria mutilata, si potrebbe dire, no? La vittoria mutilata non è male, che fu quella della Prima Guerra Mondiale. Quindi il problema, che credo l'unica cosa, l'unica sintonia che credo che ci sia oggi con il governo Monti, è la richiesta di maggiore ordine. Devo dire, abbiamo vissuto un periodo abbastanza confuso, e quindi oggi credo che ancora, naturalmente il tempo è talmente breve che c'è una sospensione di giudizio per capire che cosa e che segnali questo governo darà a, soprattutto ripeto, alle famiglie oltre che alle imprese. E i segnali che emergono oggi è semplicemente quali forme verranno utilizzate per un'ulteriore stretta. Secondo me bene farebbe il governo anche a dare qualche segnale di apertura, di motivazione anche a tutti gli italiani, perché se no da una parte abbiamo l'Europa che ci incombe, la rimessa in ordine dei conti, la necessità di dover rientrare sul bilancio, e l'Italia dico che a noi quando tocca, non tocca mai, insomma. Sì. Questo è un po' lei dice c'è la consapevolezza che è un periodo difficile, però un pochino anche di rilancio della speranza. Se lei dovesse dare il titolo adesso del vostro rapporto, mi dia un'anticipazione, come lo chiamerebbe? Voi avete sempre dei titoli immaginifici sull'Italia. Ma naturalmente non glielo posso dare. Vabbè, no, non voglio però, l'originale. Insomma, l'idea è quella. No, però in generale l'idea è quello che bisogna ritornare sempre di più all'economia reale. Quindi no, questo non vuol dire solo l'industria manifatturiera, ma vuol dire anche che tutto il sistema, con i suoi servizi, con il credito, la logistica, eccetera, si deve conformare alla creazione di valore. Oggi abbiamo molte aree del paese e anche dell'occupazione che non crea lavoro, abbiamo molte disfunzioni che assorbe risorse rispetto a creare valore, quindi penso che la strada non può che essere quella. Poi naturalmente la politica sceglierà i suoi strumenti, ma se noi naturalmente non ridiamo forza a quell'Italia che è l'unica Italia valida, quella che si misura all'estero, che fa l'export, che inventa le nuove cose, certamente non riusciamo. Quando è che esce il rapporto Censis Roma? Il 2 dicembre, come tutti gli anni, il primo venerdì del mese di dicembre da 45. Allora ne parleremo in diretta con lei o col presidente De Rita. Grazie intanto al direttore generale del Censis Giuseppe Roma. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.